ένα άκουσε ο πολεμρόλα. Pioggia sopra i tetti, bello quando torno a casa e tu mi aspetti, strano e colorato come un film americano. Io ti amo, forte come il gusto della grappa contadina, bianco come il 30 di dicembre la mattina, sotto questo cielo preso da una cartolina. Siamo soli, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Grande amore detto fino all'ultimo gettone, vero come il caldo di un abbraccio alla stazione, bello come quando posso stringerti la mano, io ti amo. Invitante come l'aria di una notte in piena estate, delicato come il suono delle vecchie serenate, questa sera sopra un cielo con le stelle appiccicate, siamo soli. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Salame o di prosciutto, la fetta con il ketchup con lo strutto, di mortadello di pancetta, perfetta, fetta, fetta, fetta, fetta. È Natale, lo senti tu, eppure Mazinga o Scooby.